5C. Ascolta e trasforma. Dice che telefonerà. Ha detto che avrebbe telefonato. Promette che le farà un bel regalo. Ha promesso che le avrebbe fatto un bel regalo. Dichiarano che seguiranno i nostri consigli. Hanno dichiarato che avrebbero seguito i nostri consigli. Lui afferma che scriverà un romanzo. Lui ha affermato che avrebbe scritto un romanzo. Lui dice che partirà alle 8. Lui ha detto che sarebbe partito alle 8. Lei mi spiega come si preparerà all'esame. Lei mi ha spiegato come si sarebbe preparata all'esame. Sa che le ragazze arriveranno alle 5. Sapeva che le ragazze sarebbero arrivate alle 5. Il ragazzo dichiara che per protesta non andrà al lavoro. Il ragazzo ha dichiarato che per protesta non sarebbe andato al lavoro.